Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Senta, lei, scusi, una domanda soltanto volevo farle in questo senso. Lei è un'aria leggermente ironica. Si sente di essere ironica verso le persone, il mondo e qualche cosa? No. E allora è un'aria che non le risulta di avere? No, non credo. Non me l'ha mai detto nessuno? No, non me l'ha mai detto nessuno. Com'è possibile raccontare una vita che la maggior parte delle persone non ha capito? Che cosa fare quando uno sguardo ci arriva distorto? Come ci si può addentrare in un percorso sapendo benissimo che alla fine non c'è un'uscita, non c'è una svolta o un traguardo? Beh, a dire il vero non ci sono molte alternative. Bisogna fare qualche piccolo sforzo, questo è evidente, e aggrapparsi alla musica nella sua accezione più ampia. Armonie, ritmica e testo, ma anche le persone che gravitano attorno alla musica. E per persone si intende proprio tutti, cantanti, interpreti, autori, manager, produttori e via dicendo. Sono avvisi per i naviganti necessari, perché oggi I Magnifici Destini si imbarca in un'avventura piena di insidie, pericoli, trabocchetti. L'unico filo rosso che collega questa difficile traversata è la voce intensa e, a detta di molti, ineguagliabile, che come un canto delle sirene ci guiderà durante il tragitto, a tratti incantandoci, a tratti risvegliandoci da un sogno. E tu non sai volare più, più, più in alto, nel viso della sera che nasce sulla spiaggia coi falò. Il mondo della musica è un microcosmo che racchiude in maniera esemplare tutti gli aspetti che fanno dell'uomo la creatura più complessa e stupefacente di tutta la natura. Nel bene e nel male, naturalmente. Ecco perché non ci deve meravigliare il fatto di trovarci di fronte a una voce incredibile, in grado di esprimere calore e profondità attraverso il canto, e allo stesso tempo assistere a una delle più spietate e crudeli cacce all'uomo che siano mai state fatte dietro le quinte. È il destino diabolico e ineluttabile che si è trovata davanti al naso la nostra protagonista di oggi, Domenica Bertè, da tutti conosciuta come Mia Martini. L'hanno calunniata, gravemente calunniata, da una calunnia da cui è molto difficile liberarsi. Può uccidere una persona questa cosa. Se avete il tempo e la voglia di farlo, troverete molti commenti del genere riguardo Mia Martini. Amici, colleghi, semplici conoscenti, tutti d'accordo nel sottolineare come la cantante calabrese sia stata vittima di un'ingiustizia che ne ha condizionato la carriera e purtroppo anche l'esistenza. Ma sarebbe riduttivo incentrare il racconto della vita di questa artista sulla sua pur intensa lotta contro i pregiudizi. Mia Martini è anche e soprattutto una cantante che ha saputo lasciare un segno nei numerosi ascoltatori in cui si è imbattuta e con i quali ha provato a scalare le pareti del mondo. Chissà se avrò paura, ho il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Ma ho iniziato praticamente subito, perché poi a 5 anni ho iniziato a studiare pianoforte e danza classica, e poi dal pianoforte alla musica classica che cantavo, perché ero mezzo soprano, poi è passata al jazz, non chiedermi come perché non lo so nemmeno io, perché a 12 anni cantavo il jazz, con grande dolore di mio padre, che invece avrebbe preferito, se dice se devi cantare, spero almeno canta la musica classica, chissà perché gli sembrava più seria la cantante lirica. Preparatevi a percepire i diversi stati d'animo di Mia, perché lei è sempre stata così, sorridente, divertita, quasi trascinante nella sua allegria, fino a quando non decide di chiudersi e riflettere, lasciando da parte per un po' il resto del mondo, con un velo di malinconia che affiora dal suo viso attirato da chissà quale pensiero. Domenica è così fin da piccolina e presto comincia a muoversi in casa Bertè alla ricerca del suo spazio e del suo futuro insieme alle altre tre sorelle. Era dolcissima, uno sguardo veramente attraente. Sapeva concentrare su di lei le attenzioni degli altri. Le parole di un papà hanno un peso quando si parla dei figli. Ed è naturale che abbiano occhi pieni di orgoglio quando raccontano di loro. Domenica nasce e cresce circondata da un sacco di qualità. È bella, tanto che viene soprannominata Alba Nascente per via di quei lunghi capelli lisci che la avvolgono. Ed è anche brava, visto che studia musica ed è portata sia per gli strumenti che per il canto, oltre che nella danza. Ma c'è un altro particolare, una caratteristica che ha attecchito parecchio in casa Bertè, quella di voler lanciare sfide nella vita ad ogni costo. Le biografie raccontano che lei addirittura attuò una sorta di sciopero della fame perpetrato per diversi giorni prima di convincere la mamma ad accompagnarla a Milano. La prima sfida per Domenica è quella di convincere la madre a lasciarla partire nel 62. Le feste di paese, le balere e i primi concorsi per dilettanti, in cui tiene le sue prime timide esibizioni, non le bastano più e così la giovanissima calabrese di Porto Recanati decide di andare a Milano a tentare la fortuna. Come nelle migliori tradizioni. E come nelle migliori tradizioni ad attenderla ci sarà qualcuno. E se domani io non potessi rivedere te? Si chiama Carlo Alberto Rossi e nonostante il cognome lo spinga verso l'anonimato, questo signore durante tutta la sua vita non ha fatto altro che distinguersi per le sue capacità vocali, soprattutto da giovane, per poi continuare a tenere accesa la fiamma della passione durante tutte le sue successive evoluzioni, compositore, editore e produttore discografico. A lui si devono canzoni immemorabili come quella che abbiamo appena sentito e rimarreste stupiti nello scoprire in quante altre famose canzoni italiane e straniere dell'epoca ha messo lo zampino. Le mille bolle blu, tanto per fare un esempio. In ogni caso è lui il primo a notare Mimì e a farle incidere i primi dischi. Lei soffre quando canta? Le soffre le canzoni che canta? Sì. Sì, questo è il mio guaio. Alle volte non mi accorgo che sto cantando davanti al pubblico e assumo anche degli atteggiamenti, so, perché vivo troppo la canzone. Non essere geloso se con gli altri ballo twist. Non essere furioso se con gli altri ballo e rock. Conti, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Certo, non si può chiedere tutto a Carlo Alberto Rossi. Quando conosce Mimì ne intuisce immediatamente le doti, ma non riesce a guidarle sul binario giusto. Non è certo una da ballo del mattone, ma un po' per fare esperienza, un po' per seguire la moda dei tempi, viene spinta nella fila delle ragazze yeye in attesa di ulteriori sviluppi. Domenica è combattuta. Da un lato il candido stupore della ragazzina di paese che guarda meravigliata il paese dei balocchi che comincia a stendersi davanti ai suoi occhi. Ma dall'altra c'è la sensazione che la sua musica non sia ancora arrivata là dove lei sta aspettando. Il giudizio di un provino alla RAI parla chiaro. Voce un po' nasale ma incisiva, stile moderno, tipo urlatori alla Celentano. In quel genere ha una certa aggressività e può essere utilizzata. È solo un giudizio e per lo più sbagliato e sbrigativo, quindi non dovrebbe creare problemi. Ma è anche un primo indizio. Il mondo che circonda Mimì farà fatica a comprenderla. Lasciamo, me ne andrò. Dara, mi dici che è finita? Ne sei proprio sicura? Deciditi all'aspetta, caro amor. La vita di Mimì Bertè conosce una prima improvvisa e brusca frenata nel 1969, quando viene trovata in possesso di 35 mg di hashish. Non c'è neanche il tempo di cercare di spiegare. Il risultato sono 4 mesi di carcere con l'accusa di spaccio. L'Italia di quegli anni sta sì vivendo il boom economico e cominciano a circolare un po' di canzoni di importazione, ma resistono un codice etico e morale, un sistema giudiziario che non riesce ancora a interpretare la realtà. E la realtà è una 22enne di Bagnara Calabra un po' confusa. Ho dato colpa all'ambiente in cui viveva, a tutta la situazione della sua famiglia, perché vedevo io che le cose non andavano bene. Dall'altra parte ero impotente. Mimì si riprenderà in fretta, perché è ancora giovane, perché il padre, letteralmente sparito dopo il divorzio dalla madre, tornerà a dare qualche segno, e perché in fondo si è trattato di un malinteso, di uno sbaglio. Uscita dal carcere, ritrova anche la sorella Loredana, trasferitasi a Roma per seguire i sogni della sorella. C'è ancora qualche strascico che proprio non ne vuole sapere di staccarsi dalla testa, ma non sembra destare troppa preoccupazione. Ma soprattutto, da via Tagliamento, arriva un suono accattivante che copre tutto. Hai mai sentito cosa ti dicevo quando parlavo con te? Hai mai sentito quello che suonavo quando suonavo per te? Hai mai sentito il cuore fremere quando fremevo per te? Ma quel che è stato ormai si sa non ritornerà da te. Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare del Piper, il mitico locale che trascinò al suo interno tutta l'energia dell'onda beat che invase l'Italia tra gli anni 60 e gli anni 70. Non tutti sapranno che quel posto e quell'idea hanno un padre putativo. Si tratta dell'avvocato Alberigo Crocetta, che insieme al commerciante di automobili Giancarlo Bornigia e all'importatore di carni macellate Alessandro Dio Tallevi, decide di gettare al vento lauree e fatture per inseguire la scia della musica. Alberigo ha lo sguardo vispo e il cervello affinato. Incontra Mimì e la squadra da capo a piedi, poi le dà una scrollata, levandole di dosso un po' di roba. Mimì, per te non funzionava troppo. E allora ho incontrato questo signore che poi è diventato il mio produttore, che aveva già manie internazionali, e allora mi ha detto: andiamo all'estero, però bisogna trovare un nome italiano che è facile da pronunciare e che è famoso, conosciuto. Guarda, all'estero di nomi italiani famosi ce ne sono tre: gli spaghetti, il Martini e la pizza, scegli un po', e io ho scelto Martini. Trovare nomi d'arte non è la specialità di Alberigo Crocetta, anche se lo ha fatto con Mimì e lo ha fatto con Nicoletta, che a un certo punto ha cominciato a farsi chiamare Patti. La sua specialità è il Piper e il mondo che gli ha creato intorno. Davvero una persona fuori dal comune, Alberigo, perché quell'atmosfera che si respira nel locale lui non la crea tirando le somme come un qualsiasi businessman, ma mettendoci passione, competenza e una buona dose di materia grigia. La mia Martini che uscirà da questo strano incontro non sarà solo il risultato di un sondaggio tra le parole italiane più usate all'estero, ma anche e soprattutto una formidabile presa di coscienza. Mia Martini nasce e sboccia improvvisamente, guidata dalle sapienti mani di Alberigo Crocetta, portando con sé il bagaglio che le è più congeniale sia dal punto di vista musicale che da quello dei contenuti. Si parlava dell'amore così, si parlava di sesso, si parlava della famiglia, di mio padre, delle mie crisi religiose, cioè tanti argomenti violenti. Mio padre davvero era una canzone molto violenta, cioè la storia di questa ragazza che si trovava nei guai e il padre che non si era mai fatto vivo prima con lei è uscito fuori in questa storia dicendo: tu in fondo hai diffamato il mio nome, hai rinnegato tutto quello che io ti avevo dato. E lei si ribella al padre, dice: in fondo tu non mi hai mai dato niente, perché non sapevi neanche che io esistessi. Vita reale, violenze, riflessioni, conflitti generazionali e di generi, altro che pizza e spaghetti. Mia diventa il megafono delle inquietudini e delle esperienze che attraversano le donne di quegli anni, e lo fa mettendoci dentro tutto il calore e l'intensità della sua voce blueseggiante, che riesce a marchiare le sue interpretazioni, creando una commistione praticamente perfetta. La ragazza Yeye non esiste più. Siamo davanti a una delle eredi delle grandi cantanti americane, da Etta James ad Aretha Franklin. Ora che Mimì ha rivelato la sua identità, c'è la fila fuori dalla porta. Nel 1970 io scrivevo canzoni solamente per me. Non avrei mai immaginato di scrivere canzoni per qualcun altro, tant'è che in seguito non l'ho mai fatto. Solo che Mimì aveva una curiosa storia, anche umana, una storia piena di tasti neri e tasti bianchi, di grandi contrasti. E allora le canzoni che vennero fuori furono scritte apposta, proprio perché c'era Mimì a cantarle. Negli anni 70 Mia Martini è ricercata da tanti professionisti, dal Baglioni appena sentito, a Bruno Lauzi, passando per Baldambembo e Califano, Gabriella Ferri e Antonello Venditti. Le canzoni vengono scritte appositamente per lei e i testi infarciti di quel materiale fragile e delicato che lei riesce a interpretare alla perfezione. Cominciano a spuntare premi e manifestazioni. È un momento in cui i tasti della vita di Mimì sono tutti bianchi e la cima sembra lì a un passo. Si tratta solo di puntare il dito e di andare a toccarla. I magnifici destini. Un accompagnant en coulisses. C'était comme une sorte de surprise. Maintenant, nous allons, Mia et moi, chanter une chanson ensemble. Un diamant. Di noi è l'istinto che fa unire gli amori incuranti del re. Abbiamo lasciato Mia alle prese con la sua scalata lenta ma inesorabile, esattamente come il timbro della sua voce nelle sue interpretazioni. A metà degli anni 70 la ritroviamo sul tetto del mondo che fuori di metafora diventa il palco dell'Olimpiade di Parigi, il teatro che da qualche anno ospita il meglio della musica francese e internazionale. Di fianco a lei c'è un signore elegante, un po' scapigliato e con una magnifica voce. Si chiama Charles Aznavour. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. È certamente un istrione Charles, come avrà modo di cantare. È anche un uomo fortunato, se vogliamo vederla in questo modo. Per un figlio di armeni nato in Francia negli anni 20, il futuro è un'incognita grande come una casa. Fortunatamente i genitori decidono di mandare il piccolo Charles a scuola di teatro. Là incontrerà niente meno che il passerotto Edith Piaf, che deciderà di portarselo in tournée negli Stati Uniti, nonostante la giovane età. Les jeux sont faits, come dicono i francesi. Per Charles la vita diventa davvero rosa. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Te ne infischi di quello che dico. Sì, fingi di ascoltarmi. E intanto pensi a una nuova pettinatura, all'arredamento, alla sarta. Cerco di dirti le mie impressioni su di un concerto e tu te ne stai lì con lo sguardo nel vuoto e le orecchie tappate. Lo sai? Taci, non ho finito. Ne ho abbastanza, chiaro? Ne ho abbastanza. Questa non è vita per un artista. Anche se forse un vero artista non sono. Ma ho bisogno che lo si creda per cercare di diventarlo. In fondo non penso di chiedere molto, no? Aznavour finisce anche al cinema con Truffaut nel suo Tirate sul pianista, dove quasi recita a se stesso, con l'unica e fondamentale differenza che lui il successo non lo abbandona mai. Merito del suo talento e dell'innata capacità di non abbassare mai la guardia sulla sperimentazione. La voce di Mia negli anni 70, insieme ai cuori, trafigge anche i confini, arrivando alle orecchie di Charles, che la vuole con sé a tutti i costi per un recital. Il risultato è il capolinea del viaggio da Bagnara Calabra a Parigi. Solo andata. Per il ritorno c'è sempre tempo. Aznavour me lo ricordo come un padre, perché ero talmente giovane e quei 3 anni con lui sono stati importantissimi per me. La maturazione dell'artista Domenica Bertè, detta Mia Martini, avviene sul palco dell'Olimpia e poi successivamente su quello del Sistina di Roma. Di fianco all'eclettico Aznavour, un vero magnifico destino per Mia, la cantante calabra libera tutto il suo talento imprigionato in quello sguardo vacuo di ragazza timida. Durante gli show i due si alternano, duettano, si abbracciano e cantano insieme, abbandonandosi alle rispettive voci e interpretando tutto con molto trasporto. Sembra quasi che le anime inquiete dell'uno e dell'altro riescano per un attimo a trovare pace, cullate dalle melodie che invadono il teatro. La verità è che almeno per Mia non c'è mai tempo per rilassarsi. Il mattino mi trova già stanca, con la faccia ogni giorno più bianca, la rabbia l'ho divisa, con il rimmer nel fondo tinta, che cosa è rimasto della mia vita? Un'immagine spiadita, niente, un nessuno. Giovanna Fossati ha avuto un grandissimo ruolo, musicalmente parlando sicuramente lei è cresciuta molto con lui, e infatti hanno realizzato poi insieme un disco bellissimo e dei pezzi unici, e lui era senz'altro uno dei suoi autori più amati. Siamo sicuri che la sorella di Mimì, Olivia, non mente quando afferma che Ivano Fossati è uno degli autori più amati da Mia. Uno dei pregi che ha il cantante genovese è quello di avere attraversato il più possibile in lungo e in largo il mare della musica che è apparso davanti ai suoi occhi. Dagli esordi beat alle incursioni nel progressive rock, dal pop abbracciato da solo fino alla vena cantautorale che ne ha definitivamente modellato la sagoma, Fossati ha collaborato con molti colleghi, ma il livello di profondità a cui è arrivato con Mia non lo ha mai raggiunto con nessun altro. Un rapporto speciale, fin dal primo incontro. Da quando, cioè, alla fine degli anni 70, Fossati mette mano al nuovo album di Mia. Io mi limito a cantare delle canzoni d'amore, che poi io preferisco dei testi più reali, più veri, ad altri più mielati, questo è un altro discorso, ma non mi interessa fare della politica, femminismo, cose, l'uomo, eccetera, nelle mie canzoni. Io voglio cantare e basta, cioè io darei una cosa un po' più semplice, una veste più semplice alle mie canzoni. L'incontro con Ivano Fossati è il classico cacio che va ad arricchire i maccheroni. Il cantante genovese, infatti, si imbatte nell'intrepida Mia esattamente al momento giusto, quando cioè lei vorrebbe scrollarsi di dosso l'etichetta di cantante sofisticata che le viene appiccicata in seguito al tour con Aznavour. Non è in discussione la sua bravura, ma per la maggioranza è diventata di nicchia, vuoi per genere o per il contenuto. La realtà è che Mimì ha un'idea diversa, e cioè quella di mettere in lirica tutte le esperienze e le vicissitudini che in qualche modo hanno fatto parte della sua vita, senza confini. E Fossati è indubbiamente la persona giusta. Ivano Fossati, certo. Che mi diceva che mi odiava ai primi tempi, lui era, avevamo appena fatto insieme La Casa del Serpente, un po' di cose insieme, però non eravamo ancora arrivati nemmeno a metterci insieme, la costruzione di un amore, gli altri pezzi sarebbero nati dopo. Lui mi odiava perché allora non aveva, era ancora abbastanza sconosciuto, aveva bisogno di un po' di carisma, di un qualche grande artista che cantasse le sue canzoni veramente per l'importanza che esse avevano, e non soltanto perché si vendevano dei dischi e basta, cioè le cose come La costruzione di un amore, Non finisce mica il cielo, che l'hanno un po' consacrato, no? E allora mi odiava perché diceva che io avevo una voce meravigliosa, che io esistevo come donna, non esistevo, esistevo solo dentro un gabbiotto con delle cuffie in testa a rendere meravigliose delle grandi, delle canzoni orrende, e così a dare lustro e omaggio a degli artisti. Per Amarti e Danza sono il risultato della collaborazione tra Mia e Fossati. Sono due album che escono a distanza di un anno l'uno dall'altro e che, soprattutto il secondo, racchiudono tutta la qualità e lo spessore che questa coppia riesce a mettere sul pentagramma. Una coppia che ben presto si spinge al di là del rapporto professionale per immergersi in una storia d'amore. Come tutte le esperienze affrontate da Mia, anche questa lascerà il segno. La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia. Il rapporto con Fossati è complesso, difficile da gestire, soprattutto per Mia che risente della gelosia professionale dell'autore ligure. Nei primi mesi dell'80, Ivano si oppone all'idea che Mia realizzi un intero album insieme a Pino Daniele. Mimì, anni dopo, spiega così le motivazioni di Ivano. Dice, tu potresti cantare anche l'elenco del telefono, sembrerebbe, certo. Sembrerebbe la mele. Per cui, siccome lui è, come tutti i grandi uomini, un piccolo uomo, soffre anche di invidie, di rancori, di gelosie, come tutti, naturalmente. Certo. E allora questa cosa gli faceva molto male. Con l'inizio degli anni Ottanta, nubi nere e minacciose si addensano sopra la testa della cantante. Da una parte c'è un rapporto di amore turbolento e logorante, forse causato dalle inquietudini che albergano sia in Mia che in Fossati. Dall'altra quelle che prima erano piccole maldicenze e frasi di cattivo gusto, che diventano una vera e propria calunnia. Mia viene continuamente boicottata, a causa di una superstizione stupida, ignorante, e la terra intorno comincia a bruciare velocemente. Il risultato è il ritiro dalle scene e una forte depressione. Sarà una sofferenza che non verrà mai cancellata. I magnifici destini. Scusate. No, mi dispiace molto che non c'è più Mia. Poi soprattutto come l'hanno trattata, trovo infamante. Vergognatevi tutti proprio. Scusate se mi permetto io. Spesso i mezzi di informazione. Quella che dice chi sei di pregiudicare. Sono impietosi, sono cinici. Fanno, hai ragione. La iella, è una vergogna, è inaudita. Non c'è verso di fare andare questa storia nel binario giusto. La voce, gli incontri, la musica, guardare bene la vita di Mimì avrebbe tutte le caratteristiche per essere una favola meravigliosa, ma non è così. Mia Martini è superstiziosa, insomma, un gatto nero che ti attraversa la strada ti mette in crisi. Trovo questa cosa veramente stupida. Io non sono superstiziosa. Si dice che io porti iella, questo dimostra che gli altri sono superstiziosi, non io. Mi è cascato il bicchiere, che coincidenza. Dapprima è un gioco, poi diventa un fastidio, infine una rovina. A causa di un incidente d'auto avuto in gioventù in cui perde la vita un ragazzo che suonava con lei, il nome di Mimì viene avvolto da uno strano alone fatto di assurdi pregiudizi e insinuazioni. È una creatura orribile, lenta, inesorabile, che presto sfugge alla logica, finendo per sgretolare la vita di Mia. Ho vissuto veramente un grande, grande dolore. Era come entrare in una specie di tunnel e non vedere mai l'uscita, non vedere mai la luce e vivere in questo freddo e specialmente questa umidità terribile che ti avvolge quando sei in una galleria senza fine, senza fondo. Alla fine sofferta della relazione con Fossati e alle malelingue che circondano Mia si vanno ad aggiungere alcuni problemi economici dovuti al suo rapporto con le case discografiche, scelte di indipendenza che la cantante pagherà a caro prezzo. La Martini esce di scena per 7 lunghi anni, finendo inghiottita da un limbo dentro cui si porta dentro l'unica cosa che non l'ha mai tradita, la musica. E sarà proprio la musica a farla uscire. Pisce stanno giù e scumazzona da tristezza innamorata e d'indarezza. E poi là sotto mare brune anche pisce stanno giù se vero purpa paurata pensa mamma scaurata. Enzo Gragnaniello di mestiere fa il cantautore. È un mestiere che ha imparato a fare partendo dal basso, da quei vicoli napoletani dove è nato, in cui riecheggiavano le storie più disparate e disperate che lui provava a cantare con la sua chitarra. Ma Enzo non si è fermato ai vicoli, li ha scavalcati per andare alla ricerca di radici più profonde, finendo inevitabilmente per imbattersi nella lunga tradizione popolare partenopea. Ed è proprio il suo animo da girovago che lo porta a incontrare la timida Mimì, anche lei in giro, alle prese con la sua musica nelle piccole piazze dei paesi. Il sodalizio che ne nasce diventa per Mia l'occasione per risorgere. Guarda, noi nella vita qua, insomma, non c'è niente da fare. Se tu sei, cioè voglio dire, avrai una stella che ti guida, qualcosa che comunque... Io credo pure in altre cose poi nella vita, no? Uno c'ha proprio una specie di destino, che ne so. È evidente che Gragnaniello crede in Mia e soprattutto nella sua voce, nelle sue qualità come artista. Crede nel suo destino, a cui aggiunge un po' di inimitabile maestria napoletana. Il risultato sono pezzi come Donna o Stringi di più, che segnano l'inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione. La spinta data da Enzo libera Mia dalle zavorre che l'avevano inchiodata al terreno e le ridona grinta. Mia lentamente si arrampica sul muro che le hanno alzato davanti per sbucare qualche anno dopo a Sanremo e zittire tutti. Felice di questa tua carriera, un momento a cui non sapresti rinunciare? Beh, un momento, ricordare con maggior sicuramente piacere. Il momento più bello è stato il momento del mio ritorno a Sanremo, l'attimo in cui ho iniziato a cantare proprio Almeno tu nell'universo. Erano 7 anni che non potevo più fare il mio lavoro, per cui ho avuto dei momenti di grande depressione e in quel momento ho sentito proprio fisicamente questo abbraccio totale di tutto il pubblico. Ho sentito proprio sulla pelle ed è stato un attimo indimenticabile. Mia Martini è tornata a sorridere da quel Sanremo dell'89. Lo ha fatto finché la vita gliel'ha permesso. Durante questo periodo ha continuato a coltivare la sua passione, quella di cantare, da sola, oppure in compagnia di un amico vero, uno di quelli che non l'hanno mai abbandonata, tipo Renato Zero. O nuovo, come Enzo. A un certo punto si mette pure a duettare con la sorella Loredana e il risultato è strano perché a volte una stanza è troppo piccola per due sagome così ingombranti. È strano il dono che è stato recapitato a casa Bertè. Due talenti purissimi ma fragili, irrimediabilmente fragili. Da un lato Loredana così irruente e folle, dall'altra Domenica, ironica e malinconica. La vita si è divertita a mettere alla prova Mia Martini, proponendole il meglio e il peggio della sua vasta offerta. E Mimì non si è certo tirata indietro. In fondo, anche a lei è sempre piaciuto scherzare. Ho scoperto una cosa durante le riflessioni di questo viaggio, che quando una donna chiede a un uomo di non lasciarla, di non andare via, diventa automaticamente una donna sola.